che non ti riconosco, coglione drogato che non si altro. Parla a quattro voci, brutto coglione. Lo sto facendo con quella grande bagasse, mamma tua, capito? Con quella grande bagasse, mamma tua, capito? Coglione, quello che c'ha il 24334, hai capito? Brutto coglione! Però me ne frega un cazzo. Tu chi sei? Prima gole tu? Sei lui? Tu mi nomi tutto me? Scusi, perché non hai fatto la bagassone di tua madre? Ma non stavo dicendo a te, ho detto a quello lì che ha fatto il mestiere. Programmino che serve solamente per